Europa 24. La Corte europea dice no ai cosmetici testati sugli animali. Ribadisce il suo no ai cosmetici testati sugli animali la Corte di Giustizia europea, nero su bianco in una sentenza. È da tempo che il diritto europeo protegge il suo mercato da cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animali. Ciò significa che anche se realizzati e quindi testati sulle cavie fuori dai confini dell'Europa per venderli in paesi non europei, si può vietare la vendita nel territorio dell'Unione. Luca Nava, direttore generale Cosmetica Italia. Non è una novità. È ormai dal 2013 che è vietato testare ingredienti e vendere prodotti che contengono ingredienti testati in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi inclusa l'Italia. È una normativa che risale al 2013 e che da allora ampiamente viene applicata da tutte le imprese cosmetiche italiane e europee. Nei fatti, dagli anni 80 che non vengono più testati prodotti cosmetici su animali. Infatti la sentenza europea nasce da un ricorso della Federazione Europea per gli Ingredienti Cosmetici, l'associazione professionale che rappresenta i produttori di ingredienti dei cosmetici nell'Unione Europea, e che chiedeva se i regolamenti europei non venissero violati se la sperimentazione viene condotta per conformarsi alle normative di paesi terzi. La stessa federazione ha chiesto alla giustizia britannica se i prodotti realizzati per Cina e Giappone si potessero vendere anche nel Regno Unito, e la giustizia britannica si è rivolta alla Corte di Lussemburgo, che ha rafforzato il divieto assoluto europeo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ha dato a Google altre 3 settimane per rispondere alle accuse formulate dall'antitrust ad aprile scorso. L'azienda ha ora tempo fino al 7 ottobre per difendersi dall'accusa di abuso di posizione dominante. Secondo l'antitrust, ingabbierebbe consumatori e produttori nel suo Android, tenendo fuori la concorrenza. Non ci sarà alcun limite di giorni al roaming gratuito nell'Unione Europea da quando entrerà in vigore il 15 giugno dell'anno prossimo. Per evitare abusi, come per esempio l'uso di una SIM lettone a basso costo in modo permanente in Germania, dove i prezzi sono invece ben più alti, verrà fatto valere il principio di residenza. È la nuova proposta del vicepresidente della Commissione Europea Andrew Sansip e dal commissario Günther Oettinger, dopo quella ritirata una decina di giorni fa dal presidente Juncker, che prevedeva almeno 90 giorni gratuiti e copriva già il 99% dei casi di roaming. Essere cittadini europei porta dei vantaggi come la libera circolazione delle persone e la moneta unica. È quanto emerge dal sondaggio Lo Stato e le prospettive dell'Unione Europea, promosso dal presidente della Camera Boldrini. Tuttavia, 10.000 cittadini italiani interpellati hanno giudicato l'Europa incapace di affrontare i problemi dei flussi migratori e della crescita economica dell'Unione. Alla presentazione del sondaggio è intervenuta la stessa Boldrini, che si è soffermata sulle carenze del progetto europeo. Il progetto europeo è decollato, si è sviluppato e poi si è fermato. Mancano dei pezzi affinché possa funzionare. Quindi oggi noi abbiamo un progetto che si è fermato a metà. Quale progetto fermo a metà funziona? Nessun progetto può funzionare se non si sviluppa fino alla fine. E oggi noi siamo in presenza di un Parlamento europeo che co-legifera. Manca un governo europeo, perché l'unico modo per contare, avere futuro, essere influenti e essere competitivi è rafforzare su nuove basi la casa europea. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.